9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno a tutti, buon martedì, rapidissimi. Il punto è molto semplice. Trovate sui giornali oggi le coordinate di questo avvicinamento graduale, ma con le probabilità che aumentano, di Massimo D'Alema verso l'incarico di alto rappresentante per la politica estera di sicurezza nell'Unione Europea. Uno dei nuovi incarichi messi a disposizione dal nuovo trattato, l'altro è quello della presidenza. A dire la verità, nella mia opinione, l'altro rappresentante per la politica estera di sicurezza conta di più del presidente, che è semplicemente formale. Mentre per il presidente è aperta ancora la gara tra un Tony Blair che perde punti e candidati più sostenuti invece dal fronte franco-tedesco come il premier belga Van Rompuy, per la carica di altro rappresentante per la politica estera di sicurezza, a giudizio di molti osservatori, Massimo D'Alema, sostenuto in maniera bipartisan anche dal governo italiano, guadagna invece punti, perché David Miliband, il candidato britannico, avete capito che la Gran Bretagna ha una partita in corso per entrambi gli incarichi, ha una partita in corso rispetto al fatto che non fa parte dell'euro. Comunque David Miliband ha fatto un passo indietro. Allo stato attuale delle cose, e Massimo D'Alema godrebbe del sostegno, oltre che di Berlusconi e del governo italiano, che l'ha ribadito anche ieri prima della cena che si è tenuta a Berlino per via del ventennale con la Merkel, godrebbe del sostegno all'interno della famiglia socialista europea dei tedeschi, dei francesi, dei belgi, dei lussemburghesi, degli austriaci, dei cechi, degli slovacchi, degli sloveni, ungheresi, spagnoli, portoghesi. Leggo dall'articolo di Maurizio Caprara sul Corriere della Sera di oggi. Quindi i bookmaker, dice La Stampa, puntano sull'ex ministro, sono tornati a dargli quote molto buone dopo che qualche giorno fa i polacchi avevano posto un problema per via del passato nel Partito Comunista, problema che sembra rientrato, e di fronte a questo si tratta di riflettere innanzitutto sulla tenuta di questa convergenza bipartisan. Sappiamo che in Italia è molto rara, di solito prevalgono i toni polemici da scontro tribale, e anche sui temi come la politica estera, la politica di sicurezza, la politica delle riforme, sulla giustizia e così via, non si riesce quasi mai a tutelare invece una convergenza bipartisan. Ecco, in questo caso, prima questione, terrà, ed è giusto che tenga, faccio notare che l'unica voce divergente fino a questo momento è quella della Lega. Roberto Castelli ha detto che è surreale questo sostegno a Massimo D'Alema, tirando in ballo l'amicizia con Hezbollah, che pesa come un macigno. Sul giornale commento di Fiamma Nierenstein su questo argomento. Di questo parliamo con i nostri ospiti. Intervenite all'800 24 00 24 per dirci la vostra. Già sono arrivati alcuni sms, ne riferisco solo uno che mi ha fatto sorridere prima dell'inizio della trasmissione, di una persona che diceva: assolutamente sì, viva l'appoggio bipartisan per Massimo D'Alema, rappresentante della politica estera e di sicurezza europea, così non si occupa del PD, sono un elettore di sinistra, preferisco saperlo in Europa. Ma questa è poco più di una battuta. Allora vi presento innanzitutto gli ospiti. Abbiamo con noi Nicola Latorre, vicepresidente dei senatori del PD. Buongiorno Latorre. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Abbiamo Franco Venturini, che è editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Venturini. Buongiorno, buongiorno. Ecco, io inizierei da Venturini per capire, nell'evoluzione di questi giorni del dibattito intorno a queste convergenze, è corretto sostenere che davvero è oramai Massimo D'Alema, secondo lei, è il candidato numero uno, oppure l'evoluzione è ancora aperta dagli elementi che lei può osservare a qualche sorpresa e a qualche colpo basso? Io aspetterei ancora un momento a definire il candidato numero uno, perché è ancora aperta quella che in realtà non sarebbe una sorpresa, ma la decisione di David Miliband. David Miliband sta comportandosi in verità in maniera un po' curiosa, nel senso che lui è stato un grande sostenitore della candidatura di Blair all'altra carica, quella di presidente, e sembra non volersi pronunciare fino a quando la candidatura di Blair non viene formalmente ritirata. Esistono delle indicazioni, ieri il capogruppo socialista al Parlamento europeo, Schulz, noto alle cronache per quello scontro con Berlusconi di qualche anno fa. Il capo, per intenderci. Esatto, il capo, che però ha una diretta conoscenza di quel che accade nel gruppo socialista, ha detto: vabbè, possiamo ritenere tramontata la candidatura di Miliband perché lui non l'ha confermata. però è un modo un po' ancora dubbioso, elastico. Ieri a Berlino c'era l'occasione di far sapere se Miliband aveva ritirato la sua candidatura, non l'ha fatto, non l'ha fatto nemmeno Brown a nome suo, e dunque D'Alema resta il candidato principale se Miliband sceglie la politica interna inglese e dunque non presenta la sua candidatura al posto di ministro degli esteri. È il numero due, diciamo, lo è sempre stato, sin da quando è sorto il suo nome come candidato. Il tentativo inglese, secondo alcuni, è di togliere Miliband e di mettere la baronessa Ashton, cioè un altro candidato inglese, però credo che in questo caso l'Europa si sentirebbe un po' presa in giro dai britannici e sceglierebbe D'Alema. E Berlusconi stesso ieri si riferiva esattamente a questa ipotesi di candidatura subordinata britannica, quando ha detto: beh, non mi pare che insomma sia il caso di pensare a persone non troppo note. Quindi insomma, Venturini, un altro aspetto tecnico un pochino per far capire ai nostri ascoltatori, perché lei sa che chi ci ascolta non è, e i lettori in generale anche dei giornali non è che sappiano proprio nei dettagli le particolarità di questi nuovi incarichi disegnati dal trattato. In realtà a che cosa serve davvero, al di là della pomposità del titolo, questo rappresentante per la politica estera di sicurezza? Che cosa può fare davvero? Ma qui si sta delineando un paradosso, nel senso che questi incarichi sono previsti dal Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona dà molta importanza alla carica di presidente, che dovrebbe non soltanto presiedere il Consiglio dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, ma anche rappresentare l'Unione Europea sulla scena mondiale. Questo incarico, come ha giustamente detto, non è in realtà molto ben visto dai capi di governo principali. Forse soltanto Berlusconi avrebbe accettato di buon grado la candidatura di una candidatura forte come quella di Blair, ma si vede male Sarkozy o la Merkel o anche altri accettare di essere rappresentati da Blair o da chiunque altro. Dunque si va contro una reinterpretazione diminutiva dello stesso Trattato di Lisbona che si sta celebrando, almeno nella carica di presidente. Nella carica invece di ministro degli esteri, che è quella di cui discutiamo per D'Alema, lì i compiti sono molto più chiari e credo che nessuno voglia diminuirli, perché si tratta di gestire la politica estera della UE nei limiti in cui esiste, che non sono limiti purtroppo molto ampi, e tuttavia con un budget a disposizione notevole e già esistente, con un precedente già esistente, perché Solana è ancora oggi il cosiddetto ministro degli esteri o alto rappresentante della UE per la politica estera, dunque si tratta di rafforzare un ruolo che già esiste, e in più con la novità di una sorta di servizio diplomatico europeo, che non si sa bene quale forma prenderà, ma che comunque è destinato anche quello a rafforzare il ruolo del nuovo ministro degli esteri. Si aggiunga che il trattato prevede che sarà contemporaneamente vicepresidente della Commissione, dunque con i due cappelli, diciamo così. Allora, conclusione. Il nuovo ministro degli esteri è destinato a svolgere un ruolo importante e di rilievo nei limiti consentiti dall'esistenza di una politica estera europea, che non sono, ripeto, limiti molto importanti, molto ampi. Invece il presidente, così come è disegnato dal Trattato di Lisbona, non sarà accettato dai governi, perché l'Europa è un'Europa intergovernativa, che piaccia o non piaccia, e dunque è molto probabile, quasi sicuro, che in quel posto si metterà un signore di basso profilo, come può essere per esempio il primo ministro belga di cui si parla. Ecco, io sono molto d'accordo con questa interpretazione di Venturini, per cui stiamo descrivendo l'ipotesi che Massimo D'Alema in realtà diventi colui che riveste l'incarico politico più importante disegnato dal nuovo trattato all'interno dell'Unione Europea. La mia opinione è che serve proprio per questo un leader politico di grande determinazione e di grande esperienza. Lo vedo dai messaggi che come al solito prevale la divisione, perché la maggioranza dei messaggi fino a questo momento dicono no, no, no dei nostri ascoltatori, non solo per le posizioni sulla politica medio orientale. Certo, con questo criterio, lo dico chi ci ascolta, se mai si riesce a fare una convergenza sui temi, grandi temi nazionali tra i due schieramenti, non si può poi pretendere ogni volta dall'altra parte dello schieramento delle concessioni laterali, perché siamo sempre lì a parole, tutti dicono che ci vuole la convergenza sui grandi temi. Quando si tratta poi di sperimentarla, la reazione di pancia è quella di dire no, questo non va bene per questo. Allora, con la Torre, vediamo un secondo perché dal suo punto di vista... che cosa si aspetterebbe da un Massimo D'Alema che riuscisse a ricoprire questo incarico? Lo dico dal punto di vista della posizione dell'Europa, che conta molto poco e può contare ancora meno per come vanno le cose nell'economia mondiale, visto che quello che conta è davvero il G2, quello americano-cinese. Tra pochi giorni Obama va proprio in Cina per trattare dollaro e yuan. La Torre, lei come la vede da questo punto di vista? Le chiedo anche una riflessione complessiva sulle possibilità, sul significato che avrebbe per il PD, ma intanto cominciamo da questo. Che cosa potrebbe fare D'Alema per l'Europa, secondo lei? Sì, naturalmente è opportuno sottolineare, lo faceva con grande cognizione di causa Venturini, le difficoltà per raggiungere questo obiettivo. Qui si stanno giocando sostanzialmente, intervengono tre questioni. La prima è quella del rapporto tra il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo. La seconda è una partita che si gioca all'interno del Partito Socialista Europeo. La terza, quella che implica maggiori difficoltà ed è quella appunto alla quale si riferiva Venturini, è quella che è la partita che si sta giocando nel rapporto tra gli Stati. Io proprio per le ragioni che sono state dette vorrei non si trascurasse cosa significherebbe per l'Italia avere e poter giocare un ruolo di questo tipo. Noi siamo uno dei paesi più europeisti per tradizione, per storia e adesso negli ultimi anni del dibattito pubblico, dopo le difficoltà registrate intorno all'adesione alla moneta unica, che insomma, sulla quale ci furono anche delle voci dissonanti, oggi però mi pare che c'è una convinzione condivisa sull'importanza del ruolo che può giocare l'Europa nel nuovo scenario mondiale. E dunque da questo punto di vista siamo un paese che ha una storia ma anche forti ragioni per poter assolvere un ruolo importante. Nello stesso tempo, nei rapporti internazionali in questo momento non siamo un paese che ha tutta questa forza, tutto questo ruolo, tutto questo prestigio, e dunque gli altri paesi hanno interesse a precludere una eventuale possibilità di questa natura. Dico questo perché anche in relazione ai messaggi che lei segnalava, al tipo di dibattito che poi c'è, e noi saremmo di fronte a una straordinaria opportunità per tutto il paese e in questo senso che anche l'iniziativa presa dal governo sia stata un'iniziativa saggia e lungimirante e quindi apprezzabile, cioè capire che qui è il momento per recuperare una buona vecchia abitudine, quella cioè che sui temi della politica estera, del prestigio internazionale dell'Italia, questo paese deve saper fare quadrato. E questa è la prima cosa sulla quale io vorrei richiamare l'attenzione. Con Massimo D'Alema, mi pare che la storia di D'Alema, in particolare l'impegno che lui ha profuso nel periodo in cui è stato ministro degli esteri, ma anche nel periodo in cui è stato presidente del Consiglio, mi pare che la stella cometa che ha ispirato la sua azione è stata proprio quello di valorizzare e lavorare per rafforzare l'unità europea, il rapporto tra i paesi europei, e ha costruito anche, sia da Presidente del Consiglio che da Ministro degli Esteri, anche i suoi rapporti con gli altri grandi paesi, sempre con l'intento di valorizzare una unità europea. Io potrei citare una serie di esempi, nei rapporti con gli Stati Uniti, nei rapporti con l'America Latina, ha sempre cercato di partire da una, preventivamente dalla costruzione di un solido rapporto tra i paesi europei, e nell'unica vicenda più drammatica che l'Europa ha vissuto, la sua profonda divisione di fronte alla politica della stagione di Bush, la preoccupazione principale anche di D'Alema è stata sempre quella di battersi per evitare questa divisione all'interno dei paesi europei. Dunque, io credo che, naturalmente non lo dico soltanto per la passione con la quale noi stiamo seguendo questa vicenda, come è ovvio, ma anche, qui c'è uno dei più grandi esperti di politica internazionale, Venturini, credo che per l'Europa la scelta di una personalità italiana e con queste caratteristiche credo che possa essere una straordinaria opportunità. In questo senso la competizione con gli inglesi è una competizione che infatti si gioca sulla base di questo dato, e cioè sul fatto che, come lei giustamente sottolineava all'inizio, la Gran Bretagna è un paese che ancora non è nell'area dell'euro, è un paese la cui tradizione europeista è piuttosto debole, in un momento fondamentale nel quale occorre rilanciare le ragioni dell'unità dell'Europa, tanto più in una politica estera che appunto richiede un ruolo più forte dell'Europa in questa fase. Credo che la carta vera che l'Italia può giocare è appunto questa forza e questa credibilità europea. Massimo D'Alema, sì o no, come rappresentante, alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea? Sta in queste ore, tra stasera e domani, in dirittura d'arrivo la decisione. Mi pare di poter dire che è in buona posizione. Abbiamo esaminato il balletto, chiamiamolo così, delle candidature britanniche, Blair per la presidenza dell'Unione Europea e quelle di Miliband per lo stesso posto per cui è in corsa D'Alema. D'Alema si è comunque rafforzato, ora si tratta di tenere sulla posizione del bipartisan, del sostegno fino a questo momento sostenuto dal governo italiano. Abbiamo visto con il senatore Latorre le ragioni di una convergenza, sentiamo cosa ne pensate poi voi, e poi diamo la parola a Mario Mauro, europarlamentare, presidente degli eurodeputati del PDL. Intanto cominciamo a sentire voi ascoltatori, cominciamo per esempio con Franca da Roma. Prego Franca. Buongiorno, voglio dire sinteticamente che sottoscrivo in pieno quanto ha detto il dottor Latorre, assolutamente. Vorrei aggiungere solo una sfumatura da cittadina italiana, che peraltro proviene dall'area ideologica di Massimo D'Alema, che non ho apprezzato e non apprezzo per varie scelte fatte negli ultimi 15 anni, nelle quali non entro in merito. Credo però che Massimo D'Alema abbia l'equilibrio, l'esperienza e la capacità di navigare, fra virgolette, necessarie per svolgere bene il suo ruolo. Mi piace che sia un italiano, non entro in merito ai miei timori su futuri inciuci, spero che ciò non succeda. Grazie Franca, sintetica, chiara, molti punti. Mauro da Brescia, prego Mauro. Buongiorno, allora io sono invece molto contrario, non solo contrario, sono contrario perché ieri si festeggiavano i 20 anni della caduta del muro di Berlino, 20 anni la caduta di quel muro è stata data grazie non a degli stati ma dei cittadini che per un errore dello Stato, per una svista dello Stato hanno cominciato a muoversi verso ovest, rendendo il muro inutile. Che adesso ci siano delle persone che abbiamo combattuto come liberale o come libertario, no? Penso che sia socialisti che comunisti non abbiano nulla da insegnare ai liberali e ai libertari. Non capisco come un governo di destra, di centrodestra, non abbia, oppure persone che da anni si sono distinte nel lavoro pubblico, nella salus pubblica, nel lavoro serio e pubblico, non abbiano dei candidati da proporre alla comunità europea, visto che poi l'Italia è il secondo contribuente delle casse comunitarie. Non ho capito perché dobbiamo appiattirci sulla posizione di andare a prendere delle persone tipo D'Alema che dovrebbero scomparire dallo scenario pubblico. Grazie, Mauro, grazie. Io richiamo tutti a una osservazione. Per comporre l'accordi internazionale all'interno dell'Unione Europea sul tableau delle diverse candidature per la presidenza, per l'alto commissario e così via, bisogna comporre queste candidature pensando che sono due le grandi famiglie politiche europee, quella appunto popolare, democristiana, che egemonizza il campo moderato, e quella socialista. Sono queste le due grandi famiglie. Quindi in un compromesso in cui si tratta di intersecare il peso dei grandi paesi rispetto ai piccoli, bisogna sempre tenere conto che le trattative, le convergenze, le grandi scelte, quindi quelle condivise, si fanno riconoscendo alle due grandi famiglie politiche. Non è che una famiglia può scomunicare l'altra e dire: siccome è caduto il muro 20 anni fa e noi siamo liberali, non ti diamo niente, perché non funziona così. Questo è il punto. Allora, onorevole Mauro, ecco, presentando l'onorevole Mauro, dico per esempio la mia sull'onorevole Mauro. Io penso che l'Italia e l'Europa, anzi che l'Italia sia in credito, perché con Mauro Mauro, secondo me, con Mario Mauro avremmo avuto un ottimo presidente al Parlamento europeo, e probabilmente la famiglia popolare ne aveva pieno diritto, oltre al fatto che secondo me sarebbe stato un ottimo presidente. Ma al di là di questo, lo ridico proprio per ricordare a chi ci ascolta la complessità di queste convergenze. Se ognuno scomunica gli altri, non si fa nessun accordo né in Italia né in Europa. Dal suo punto di vista, onorevole Mauro, quali sono le valutazioni sulla possibilità di portare a casa questo risultato, l'utilità di questo risultato, però anche da popolare, che cosa significa da popolare se un grande figura del campo socialista europeo porta a casa questa carica, cosa vuol dire per i popolari però sul complesso dell'accordo europeo che si delinea? Prego. Ma innanzitutto un giudizio chiaro su quella che deve essere la politica estera europea, perché evidentemente nel momento in cui ci interroghiamo su chi debbano essere i protagonisti dal punto di vista della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea e del suo Ministro degli Esteri, è bene anche chiedersi che tipo di politica estera intendiamo fare. Ora, la politica estera europea non è semplicemente mediana tra le posizioni americane e quelle dei soggetti che di volta in volta si affacciano sullo scenario globale, la Russia, la Cina, ma è qualcosa di più. È quella politica estera che ha espresso un principio di coesistenza pacifica 50 anni fa, che nel tempo ha assicurato per un'area molto grande del mondo pace e sviluppo, una pace e uno sviluppo senza precedenti storici. Quindi è una politica estera che nel momento in cui si manifestasse davvero con coerenza rispetto al progetto originario potrebbe essere vincente per tornare ad essere protagonista sullo scenario globale e non più semplicemente comprimaria. Proprio per questo una candidatura italiana teoricamente ha più chance di una ad esempio inglese, per la semplice ragione che quella inglese è sempre stata molto marcata e essere condizionata a quel punto dalle opinioni degli altri 26 paesi membri non appare certo anche il desiderio più agognato per una politica di questo genere. Il timore invece dove sta? Sta nel fatto che, nonostante il balletto, la candidatura britannica rimane ancora oggi a mio avviso molto forte, e il fatto che questa candidatura sia comunque ascrivibile al campo socialista non deve essere letta con occhi delle vicende italiane, perché evidentemente, come lei direttore ha già precisato, il rapporto che intercorre tra la famiglia popolare e la famiglia socialista nella costruzione del progetto europeo è un rapporto che pensa al futuro e tendenzialmente cerca anche di pensare in grande. Devo dire una cosa concretamente, invito su questo la Torre prima e Mauro poi a dare una risposta. Pensate, esprimiamo un giudizio, che cosa è davvero stato in grado di portare Tony Blair al tavolo del Medio Oriente come plenipotenziario straordinario? Lo dico naturalmente, io sono un grande sostenitore della figura storica di Blair, ma dico il Regno Unito oggi non è forse, come ha appena detto Mauro, ma penso proprio al Medio Oriente, che è forse il maggior bias, il difetto che viene identificato da molti nelle posizioni di Massimo D'Alema, cioè troppo filo Hezbollah, quella passeggiata in Libano, insomma in parole povere a braccetto con gli Hezbollah. Allora chiedo, Blair è riuscito a fare meglio? La mia opinione è no, purtroppo. Allora, probabilmente da questo punto di vista ciò che molti ritengono un difetto di Massimo D'Alema, e io sono pro Israele, anch'io sono tra quelli, però potrebbe paradossalmente essere un moltiplicatore per l'Europa. Mauro, lei come la pensa sul tema delicato al Medio Oriente e dove l'Europa può giocare, bisogna dire, rispetto alle partite delicate, aperte, penso all'Iran, penso ai incrudimenti di questi giorni, e quello che viene attribuito a difetto di Massimo D'Alema non può essere paradossalmente il suo punto di forza? Sì, intanto però se fosse Tony Blair l'avversario di Massimo D'Alema per questa poltrona, probabilmente queste considerazioni risulterebbero vincenti. La verità è che l'avversario vero di D'Alema è Joe Miliband, che per la poltrona di ministro degli esteri europeo ha differenti attù. La considerazione di Blair, che era giustamente per la posizione di Presidente del Consiglio, si iscriveva in un'altra considerazione più generale, quella di un'Europa che volesse gettare il cuore oltre l'ostacolo e svecchiarsi, tirarsi di dosso quel freno soprattutto burocratico che l'ha resa in viso a molti suoi cittadini, per riproporsi in termini positivi per la generazione che viene. Ancora una considerazione breve sulle opportunità di D'Alema. Io credo che proprio perché la candidatura di Massimo D'Alema passa attraverso le forche caudine del giudizio sull'ex comunista o sul quasi comunista di oggi, anche quelle riflessioni che c'erano nell'accento di alcuni degli ascoltatori sul tema per esempio dell'inciucio vadano spazzate via. Ben venga un rapporto tra maggioranza e opposizione in Italia che, proprio perché è capace di andare al di là della contingenza nel sostenere questa candidatura, sia capace di andare al di là della contingenza nel gestire il tema delle riforme nel nostro paese, per farlo a livello europeo. La Torre, dal punto di vista di Israele, che cosa pensa di poter dire? Naturalmente D'Alema è una persona equilibrata, però insomma, le sue posizioni politiche sono note, e su questo è la maggiore inquietudine di alcuni ascoltatori, che dicono: ma perché caratterizzare l'Unione Europea in maniera così netta a favore di una delle due parti? Lei che dice su questo punto? Ma guardi, io intanto sto ai fatti. I fatti dicono che sia nel lungo colloquio che ha avuto D'Alema con l'ambasciatore israeliano in Italia, sia la posizione ufficiale del governo israeliano, che è stata quella di rimettersi alle decisioni dell'Unione, dei capi di Stato europei, e non ha manifestato alcun tipo di preclusione o di pregiudizio nei confronti di questa candidatura, testimoniano che, al di là, diciamo, delle opinioni che peraltro sono anche abbastanza note, nella concreta azione di politica estera condotta da D'Alema il tema di Israele è stato tenuto sempre in una considerazione, diciamo, fondamentale. Quello che è accaduto nella vicenda recente della guerra nel Libano, dove l'iniziativa italiana con l'allora ministro degli esteri Massimo D'Alema, grazie alla forza diveniente da un consenso di tutte le forze politiche italiane, ricordo quella commissione esteri convocata in piena estate che accolse, dette la forza a D'Alema di tutto il Parlamento italiano per unire l'Europa per un intervento teso a fermare una guerra che stava creando grandi problemi anche allo Stato di Israele. E tra l'altro di quella vicenda ha fatto notizia una fotografia e non si ricorda invece quanto questo è stato importante per lo Stato di Israele e anche per la possibilità di costruire anche un governo successivamente, o proprio in queste ore mi pare nuovamente confermato, di unità nazionale in un punto cruciale dell'area medio orientale. Cioè voglio dire che al di là anche di alcuni pregiudizi, mi pare che nella pratica concreta si è potuto certificare una sensibilità, una cautela, un'attenzione che poi è nel solco della tradizione della politica estera italiana, e cioè che è quella di assumere il tema della pace in quella parte del mondo attraverso il riconoscimento anche di due stati come, come dire, un asset strategico sul quale si riprende un lavoro che effettivamente in questi anni, non credo per responsabilità principale di Tony Blair, ci mancherebbe altro, qui non è in discussione il prestigio e la forza, ma certamente in virtù di una serie di ragioni, compreso probabilmente anche una insufficiente iniziativa da parte di chi aveva questo ruolo e questa responsabilità, non ha prodotto alcun passo in avanti. Poi volevo approfittare per dire all'ascoltatore, diciamo, che poneva il problema, Mauro lo ha fatto in maniera assolutamente condivisibile, qui vanno precisate due cose. La prima, che si sta discutendo della nomina del presidente della commissione previsto dal Trattato di Lisbona e del ministro degli esteri, diciamo, e lo si sta facendo con l'obiettivo di trovare una convergenza tra le due grandi famiglie europee e queste politiche europee, e questo implica che chi avrà la famiglia politica che avrà l'incarico di presidente, diciamo, non avrà l'incarico di ministro degli esteri, e questo fa parte di un normale accordo politico fra i due grandi partiti. Prima questione. Seconda, e in questo senso, diciamo, qualora Mr. Pesca fosse attribuito al Partito Socialista Europeo, il Partito Socialista Europeo è orientato per ora a presentare questa candidatura, e comunque è in piedi anche l'eventualità che possa essere Miliband. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto, diciamo, io consiglierei di abbandonare ormai un armamentario antico fondato su giudizi storici, per alcuni aspetti anche rispettabili, ma ci sono i fatti, c'è il comportamento concreto, cioè non solo D'Alema, ma diciamo la sinistra italiana, quella riformista, e l'onorevole D'Alema sono stati al governo del paese, hanno assunto incarichi come quello della guida della politica estera, e concretamente in questi ruoli, in queste funzioni, hanno seguito una linea che è assolutamente nel solco dei valori della tradizione della democrazia occidentale, della democrazia italiana. Io ricordo tutti anche l'intervento italiano, la compartecipazione nei confronti dell'azione internazionale concertata che fu necessaria per sulla Serbia, un aspetto molto delicato, mesi molto delicati in cui il dibattito politico italiano era spaccato non a metà, ma molto più che a metà, ed era incandescente. Il presidente Cossiga ricorda sempre che in quel passaggio fu a suo giudizio addirittura decisivo che fosse Massimo D'Alema a portare un'Italia a maggioranza di centro-sinistra a sostenere gli sforzi intrapresi dalla comunità internazionale e poi operativamente condivisi in sede NATO, ma certo con gli Stati Uniti, che poi avevano un ruolo preminente. E ricordo tutti che si sganciavano bombe sulla Serbia, ecco. Detto tutto questo, onorevole Mauro, faccia capire una cosa a chi ci ascolta, che lei lo sa, è meno addentro di quanto forse sarebbe giusto, ma rispetto a una politica europea che è fatta di molti accordi, molti dettagli, che quindi tende un po' ad allontanare. Se la linea della convergenza tra le due famiglie politiche dovesse disegnare poi alla fine un presidente europeo come il primo ministro belga, che nessuno conosce, e un ministro politica estera, che secondo me sarebbe a quel punto la figura più forte di tutto il nuovo team di estrazione socialista, e stiamo vedendo Massimo D'Alema come candidato forte, anche se a quel punto i britannici resterebbero senza niente. Io dico che si può fare un accordo senza britannici, per come capisco l'Unione Europea di oggi, vorrei capirlo da lei se si può fare senza britannici da tutte e due le parti. Che cosa avverrebbe poi in concreto per riequilibrare? Cioè I popolari che cosa chiederebbero in più? Io ricordo anche che l'Italia poi a quel punto farebbe a meno del suo commissario attuale. Ci farebbe capire, ci fa capire meglio che cosa può succedere? Lei ha messo il dito sulla piaga, direttore. Innanzitutto va ricordato che la costruzione europea si regge su un principio chiave, e cioè che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide. Detto questo, che è premessa per capire che ci si può unire addirittura sui contenuti, figuriamoci se non ci si può unire sulle designazioni. E per capirlo fino in fondo dobbiamo renderci conto che abbiamo nominato appena un presidente della Commissione europea della famiglia popolare, ma col placet di un governo socialista, perché Barroso, quando l'abbiamo rieletto alla presidenza della Commissione europea, è stato indicato nel ruolo di commissario, prima di tutti gli altri che verranno indicati a gennaio, da un governo socialista. Quindi in realtà i popolari non hanno nulla da chiedere per compensare, perché hanno invece loro iniziato una stagione di designazioni incrociate. Detto questo, rimane il problema invece geopolitico, ed è vero che una figura forte come quella di Massimo D'Alema, inabbinata a una figura meno conosciuta al di fuori dell'establishment europeo come quella del primo ministro Van Rompuy, probabilmente potrebbe creare non dei problemi funzionali, ma delle irritazioni esattamente in chi gestisce il cuore dell'establishment. E questo è uno dei rischi a cui è esposta la candidatura di D'Alema. Rimane però oggettivo il problema da lei posto, che l'eventuale designazione del ministro degli esteri inglese David Miliband aprirebbe, dal punto di vista dei contenuti, un problema molto più grande, perché, torno a dirlo, la politica estera fatta dagli inglesi è sempre stata molto marcata rispetto a una politica dell'Unione universalmente intesa o mediamente intesa come più liquida, e quindi in questo senso Miliband rimarrebbe forse più problematico in realtà. Rimane il fatto che negli ultimi anni le intese tra Germania, Francia e Gran Bretagna hanno pesato, e rimane il fatto che il lavoro fatto dal commissario Tajani questo anno e mezzo, soprattutto all'interno del coagulo necessario ai commissari popolari per essere anche espressione politica oltre che tecnocratica, è stato molto utile, e tutti questi fatti sono sul piatto. Grazie, grazie a senatore Latorre, grazie a Mario Mauro. Il mio auspicio finale è che se vince vinca per convergenza, ma evitiamo che, se D'Alema non passa, che poi sia colpa di Berlusconi, se vince era solo colpa del PD. Non parliamo di schieramenti su queste cariche. Grazie, l'appuntamento a domani da Linea Generale Radio. Radio 24, la passione si sente.